Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 1 marzo 2015. L'agricoltura di precisione rilancia le fattorie americane. Torna a crescere il settore agricolo americano grazie anche alle nuove tecniche di coltivazione di precisione. A quasi 3 anni dal varo del Farm Bill, approvato nel 2012 dal Congresso e dal Senato degli Stati Uniti, il settore primario a stelle strisce si sta rilanciando sull'onda degli investimenti tecnologici e di ricerca che hanno permesso di aumentare la resa del terreno, riducendo e rendendo più efficace l'uso degli agrofarmaci, dei fertilizzanti e dell'acqua. Fin qui la notizia del 1 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. L'agricoltura di precisione è una delle soluzioni che dovrebbero essere sostenute da forti incentivi previsti nel nuovo Farm Bill americano, la legge fondamentale sull'agricoltura che ogni 5 anni viene approvata dal Parlamento statunitense. L'agricoltura di precisione è basata su macchine che applicano un principio che i contadini conoscono bene, e cioè che il terreno ha bisogni diversi in pratica da zolla la zolla, così come non tutte le piante di un campo necessitano della stessa quantità di acqua o di agrofarmaci. Luigi Sartori, docente di meccanizzazione agricola e viticola all'Università di Padova, al microfono di Maurizio Melis. Sono macchine intelligenti che con l'uso dei ricevitori satellitari e grazie alla costruzione delle mappe che rappresentano il tipo di suolo, si può adattare il modo di coltivazione per ogni singola zona. In questa maniera si riesce a ridurre la quantità di concimi o di mezzi chimici utilizzati, perché si dà soltanto il minimo indispensabile per ottenere il massimo della produzione. Le economie, se guardiamo la singola operazione colturale, sono molto basse, perché ad esempio per la concimazione, questi sono i dati nostri italiani, si riesce a ridurre del 15-20% i costi di fertilizzante a fronte di una produzione che rimane sempre uguale, per cui abbiamo una riduzione del 15%. Però se noi adottiamo questa metodologia anche a tutte le altre operazioni, quindi alla distribuzione dei fitofarmaci, all'irrigazione e così via, otteniamo una riduzione ben più sensibile. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.